Chart. New York. Billboard Music Chart. Tokyo. Billboard Music Chart. Club Breakfast. Club 91. Club 91. Club 91 presents. Club 91. Club 91 presents. Billboard Music Chart. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're very welcome to the seconda edizione of Billboard Music Charts. On controls, il nostro Gino Banderas, pronto come sempre. Allora sei pronto a tornare indietro con un bel pezzo dai Beatles degli anni 60? Di questi ultimi tempi, ultimo album che hanno registrato insieme. The album was called Abbey Road and this is Come Together, the voice of John Lennon with the bass playing of Paul McCartney. Chi potrebbe chiedere un inizio migliore di quello? I Beatles from their last album registrati insieme. Il nome dell'album è Abbey Road e questo è Come Together. Allora, Billboard Music Charts on Club 91, se ci volete contattare questa sera. Il nostro numero di SMS è il 335-537-9191. E vi do anche il numero di telefono per chiamarci. Che ne dici, Gino? Ah sì, Gino, c'ha voglia di parlare con voi ascoltatori stasera. Allora, il numero di telefono è 081 549 91 91 non 91. Stavo pensando alla bella Anastasia che sta arrivando. Ha vinto un bel premio all'MTV Music Awards. Non si trova sul Billboard Music Charts, però immagino ci sarà tra poco. Paid my dues. London. Billboard Music Chart. Paris. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Club 91. Billboard Music Chart. Pezzo di Lenny Kravitz, e su questo lui ha suonato tutti gli strumenti, e l'album nuovo uscirà entro Natale. Sicuramente sarà un grandissimo hit. C'è anche da segnare che al momento i suoi greatest hits hanno saltato 34 posizioni nel Billboard Hot 200 e si trova a 110. Un ottimo cosa, visto che è uscito più di un anno fa. Complimenti a lui. Allora, Billboard Music Chart, vediamo un ex number one in tutta Europa. Sicuramente lo conoscete in sottofondo. It's il grande Roger Sanchez with Another Chance. Billboard Music Chart. Billboard Music Chart. Tell the Milky Way. Train, Jobs of Jupiter, il nome del pezzo. I Train sono formati in San Francisco nel 1994 e nel 2001 si trovano attualmente al numero 19 in the Billboard Hot 100. Allora, hanno un nuovo singolo già in uscito, però a noi piace molto It Takes a Fool to Remain Sane. Here's the Ark. Con Silicon Soul che ci fanno muovere questo martedì sera, martedì 13 novembre, e se c'erano dubbi se fa freddo o no, fa freddo sì, però con la musica così di Gino Bandera, Song Controls, impossibile. Tra poco arriverà il nostro momento di gioco. 081-549-9191 è il nostro numero di telefono per contattarci, e il nostro sms 335-537-9191. Allora, al momento si trova at number one in America, it's Mary J. Blige. Pado, immagino che lei non spegnerà le luci per un bel po', perché si trova al numero 5 in the Billboard Hot 100. Bravissimo Nelly. 081. Ah, siamo arrivati a giocare un po' con uno dei nostri ascoltatori. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto! Pronto, buonasera, chi sei? Hello everybody! Hello, what's your name? Come ti chiami? José. José, buonasera! Allora, José, sei pronto a vincere un bel capolino di Club 91? Se tu mi aiuti, certamente. Allora, vediamo che posso fare. Allora, okay. Sai come funziona il gioco? L'abbiamo fatto ieri, se no ti li spiego un attimo. Io davanti a me ho 5 buste, semplice, A, B, C, D, E. Tu mi devi dire semplicemente quale busta vuoi, e lì dentro ci potrebbe essere una domanda semplice, una domanda difficile, o addirittura forse ti facciamo anche cantare, come è successo ieri sera. Ma davvero? Sì, allora dammi un numero tra un lettera, anzi tra la A e la E. Tra la A e la E? Sì, ce la fai? C. C, ok, C, vediamo, eccolo qua, apriamo, ok. Sei italiano, cos'è? Mezzo e mezzo, mezzo italiano, mezzo sudamericano. Allora, secondo me c'hai mezza possibilità di rispondere mezza, a questo. Ma un'intera, mezza, va bene. Ok, quale artista italiano ha collaborato con Bono, Sheryl Crow, Paul Young, Sting e Eric Clapton? È difficile. E non è molto ripeti difficile. Ripeti i nomi, scusa, ripeti i nomi. Allora, Bono degli U2, Sheryl Crow, Paul Young ha fatto un pezzo di nome in inglese, Without a Woman, se conosci l'inglese. Ma questo cantante canta in inglese pure? È capitato, sì, però è più conosciuto per sue versioni italiane. Ma italiano, sì. Sì, italiano. Bravo, bravo. Ci puoi dire? TikTok, TikTok. Come si chiama? Sta scrivendo. Quel tipo con la barba, non mi viene il nome. Marta, dimmi. Zucchero, è lui! Oh, Zucchero! Allora, cos'è? Hai vinto un bel cappellino di Club 91! Noi grazie. Giocheremo un'altra volta tra un'oretta, e nel frattempo cos'è? Rimani in linea? Certo. E che facciamo, Gino? Suoniamo Zucchero! My World, Michael Jackson, il suo nuovo pezzo, e quello si trova al numero 3 in Canada. Wow, bravo Michael Jackson! E lui stava a New York la settimana scorsa quando ha fatto un public appearance in un record shop, un negozio di dischi, e veramente ha fermato il traffico, c'era un mare di persone a vederlo. Però è strano, no, che Michael Jackson si mette a fare questo public appearance, insomma, non lo so. Comunque abbiamo fatto ieri sera un pezzo di Michael Jackson in remake, dopo Neffa arriva un'altra bella remake. Fermata, e noi ci fermiamo un attimo per far sentire la bella bella music, perché siamo arrivato a Now and Then, dove il nostro Gino Palombo Banderas GJ ci propone un bel remake, una versione originale e poi un versione tutto nuovo. In questo caso è proprio un pezzo fortissimo, e vedo in Billboard che al momento si trova al numero 6 la versione originale nei brani più suonati in jukebox, mentre al numero 60 la versione di All Stars. Grande chitarra di Richie Blackmore dai Deep Purple, That Smoke on the Water. Allora, you're listening to the Billboard Music Charts. Oggi che giorno è? Il 13 novembre 2001, esattamente 27 anni fa, nel 1974, un impostore, dicendo che era Richie Blackmore, ha preso in prestito un Porsche in Iowa City e ha fatto un brutto tamponamento. Nel frattempo Richie Blackmore stava suonando a San Francisco. Ma roba del pazzo, veramente. Ok, listen to Billboard Music Charts. Ascoltiamo adesso il grande Robbie Williams insieme a Nicole Kidman. Dicono che questo forse sarà numero uno a Natale. Vedremo. This is Something Stupid. Proprio high in questo momento, beato lui, ecco. Però magari sta perdendo posizione, si trova al numero 2 in Inghilterra, però può essere felice perché sta salendo nella classifica americana Billboard Top 100 al numero 43 in rap. Allora, 335-537-9191, questo è il nostro numero di SMS. Voglio salutare a Barbara che ci sta ascoltando in questo momento. Grazie Barbara, buone cose anche a te, e ti dedico questo bel pezzo di Terence Trent D'Arby. Adesso le dobbiamo chiamare Sandina, e questo si chiama Oh Divina, un gran bel pezzo, un ritorno per lui. Music Chart. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. You think this song is about you, magari. Oh yeah, magari conoscete questo ritornello da Carly Simon quando lei ha fatto You're So Vain. Infatti questo pezzo è Son of a Gun featuring Missy Elliott, Puff Diddy and Carly Simon. It's Janet Jackson. Si trova al numero 50 in Billboard Hot Charts e al numero 23 Eve. Music Charts. Billboard Music Charts. Oh yeah, perdona, perdona, chiedo scusa, non era colpo mio. That's Tiziano Ferro with Perdona. I ragazzi, Billboard Music Charts, è giusto che guardiamo i hit di tutto il mondo, e perciò siamo in Italia. E Tiziano Ferro si trova ancora al numero 2. Immagino che sta chiedendo a Kylie Minogue, perdona se ti odio, visto che tu rimani al numero 1, io rimango solo al numero 2. Comunque, adesso andiamo un po' indietro, non molto, andiamo ai tempi migliori, quando facevo ancora caldo. Adesso c'è la pioggia, fa un po' frescatino, però ricordiamo l'estate con Addis Black Widow. Vi ricordate di questo pezzo? It's called Waiting Summer. Hanno spaccato quest'estate col grande Crying at the Discotheque. Ce la faranno col nuovo pezzo Sexual Guarantee? Quello è Alcazar. Ragazzi, ce l'avete la Sexual Guarantee da me? Sicuramente. Ho avuto il piacere di conoscerli quest'estate e veramente sono delle belle persone in tutti i sensi. Allora ragazzi, siamo quasi quasi arrivati al momento del gioco. Sapete come funzionare? 5 buste, anzi mo sono 4. Dovete scegliere tra la A e la E, e voi vincete un bel capolino. Mettetevi a chiamare adesso. Il numero è 081-549-9191. Here's Paulina Rubio. Yee, siga qui. Siga qui. Paulina Rubio on Billboard Music Charts. Un grande hit per lei. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento del gioco. Chissà se siamo tutti pronti a giocare e vincere. 081 549 91 Allora vediamo chi c'è in linea. Pronto, chi sei? Pronto. Pronto, come ti chiami? Raffaele. Raffaele, buonasera, da dove telefoni? Ciao, sono il telefono dal cuore di Napoli. Di Napoli, ok, sì. Allora sei abbastanza attuale, conosci tua musica, voglio dire? Qualcosina sì, qualcosina no. Ok, allora il più grande hit del momento è di Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Io voglio sapere da te semplicemente da quale paese viene Kylie Minogue. Semplicemente, ma non è proprio semplicissimo. Dai, non è difficile per niente. Australia, credo. Wow, ma sei bravissimo! Allora hai vinto un cappello, rimani in linea e poi, senza problema, noi ti la facciamo avere. Allora, vediamo se c'è qualcun altro in linea. Pronto? Ci stai? Pronto? Non c'è nessuno. Pronto? C'è qualcuno in linea? Mi pare di no. Allora, andiamo avanti con la musica. Pronto? Un ultimo tentativo. Pronto? Ecco, avevi ragione, Gino. C'è una ragazza. Come ti chiami? Io, Manu. Manu, ok. Manu, c'è una domanda per te. Però devo aprire questa busta. Ammetto che prima avevo aperto la busta io, per Raffaele. Allora, abbiamo tre buste qua davanti a noi. A, B ed E per Empoli. Scegli una di queste buste. Quale vuoi? E. E, ok. Apriamo. Ecco, ti intendi un po' di calcio, le capisci un po'? No, non so niente. No, c'è magari il tuo fidanzato o il tuo fratello che le capisce un po'? Sì, aspetta che te lo chiamo. Allora, no, io voglio parlare con te, però se stai ascoltando la radio, tuo fratello o fidanzato può rispondere magari. È semplice questo, per quale squadra inglese gioca il marito di Victoria Beckham, cioè quella dai Spice Girls, è sposato con, le sai? No. Con David Beckham. David Beckham gioca per quale squadra inglese? Il tuo fidanzato come si chiama? Con la rossa. Eh? Con la rossa. Con la rossa? Sì, sono rossi. Le daiamo o no, visto che si chiamano The Red Devils, i diavoli rossi? Sì, le daiamo. Allora, Manu, non vai da nessun parte, prendiamo le tue dettagli. Manchester United era la risposta giusta. E adesso, se fossi un videocamera, ti vorrei vedere a ballare. Col pezzo che Raffaele ha saputo è di Kylie Minogue from Australia. This is Can't Get You Out of My Head. Board Music Chart. Simple Minds, questo viene dal loro nuovo album fatto completamente dai cover. Infatti questo Dancing Barefoot era originalmente scritto e registrato da Patti Smith e poi anche gli U2 hanno fatto un gran bel cover. Billboard Music Chart, here's Star Sailor and Alcoholic. Don't you know? Music Chart. Ecco, può continuare a chiamare Jerry Halliwell, però non lo possiamo rispondere perché stiamo andando via. Un'altra serata si è conclusa con Jerry Halliwell and Calling e vi ringrazio per averci raggiunto questa sera, però l'appuntamento domani resta alle ore 21, 2 hours of the best music on Billboard Music Charts with Fergal Kavanagh and Gino Palombo on controls. A domani!